Vittorio Messori, che credo sia, oltre che uomo pio, uno scrittore di una certa fama, commenta sul Corriere della Sera di mercoledì 3 febbraio la notizia per cui, in vista dell'afflusso di pellegrini in Terra Santa in occasione del prossimo giubileo, l'autorità israeliana dei parchi ha deciso di costruire nel lago di Tiberiade una passerella sommersa a pochi centimetri sotto il pelo dell'acqua, grazie alla quale, dietro esborso di una piccola somma, i pellegrini potranno provare l'emozione di camminare sulle acque del lago proprio come il Redentore. La commenta riportando in apertura una barzelletta che assicura diffusissima a suo tempo in sagrestie e conventi, quella in cui scribi e farisei, assistendo al miracolo in questione, commentavano che quel preteso messia non sapeva neanche nuotare. A me, che con conventi e sagrestie ho meno dimestichezza, di barzellette ne viene in mente un'altra, forse meno edificante ma altrettanto innocua, quella in cui a San Pietro o a San Tommaso o qualche altro discepolo che nel tentativo di imitare il maestro finiva regolarmente a mollo, si raccomandava di avere fede, molta fede, e soprattutto di camminare anche lui sugli scogli. Me la deve aver raccontata tanti, tanti anni fa un sacerdote che ogni tanto mi capitava di frequentare, a dimostrazione del fatto che quella di scherzare con i santi, nonostante l'opposto parere in proposito del sagrestano del primo atto della Tosca, è pratica diffusa anche presso le persone meno sospette di preconcetti antireligiosi. Ma non è questo il punto, naturalmente. Il dato interessante è che il Messori, dopo aver osservato che il gioco delle parti pretenderebbe da un cristiano l'immediata espressione di fronte a tale progetto di quanta più indignazione possibile, decide di non indignarsi. Lo stracciarsi subito le vesti, osserva, connota nel Vangelo personaggi non troppo positivi. Il guidare sempre allo scandalo non è tra le esortazioni della Scrittura, del Nuovo Testamento innanzitutto. E poi spiega, andando un po' più sul difficile, che il cattolicesimo tra tutte le varianti cristiane è quella che incarna il bisogno di vedere. Ben lungi dal condividere l'ideale protestante di una fede pura e dura, tutta e solo basata sull'ascolto della parola, crede nei rituali, nel fasto liturgico, nelle processioni, tanto è vero che è stato nella storia il maggior committente ispiratore di arti come pittura, scultura e architettura. E poi Gesù si rivolgeva soprattutto ai semplici, una definizione che, non si può negarlo, ben s'addice a quanti pagheranno il biglietto per farsi una bella camminata sul lago di Tiberiade. Avrà sicuramente ragione lui. Magari insinuare che chi ostila da passerella sul lago dovrebbe essere nemico di Michelangelo e Raffaello è un po' troppo, ma Messori avrà ragione lo stesso. Io non sono certo dotato della competenza teologica necessaria per contestarlo. Ho qualche vago ricordo di affermazioni evangeliche che in merito al dare scandalo e allo scandalizzarsi mi sembravano un po' meno accomodanti, ma forse mi sbaglio. Lo porte tut scandala e veniant probabilmente è stato abrogato con la messa in latino, e l'invito a divegare al collo di chi desse scandalo una macina da mulino e poi sprofondarlo nel mare si riferiva probabilmente solo a certe categorie di scandalosi. C'entrano dei fanciulli, mi sembra. E poi condivido il principio per cui stracciarsi le vesti e lanciare lamentazioni non serve mai a molto. Quella notizia, vi assicuro, a me non mi ha scandalizzato per niente, e anzi, se mai mi capiterà di por piede sulle rive del lago di Tiberiade, non mancherò di mettermi in fila per incamminarmi buono buono lungo la passerella. Però è strano, eh? È strano questo fionire di articoli di gente che non si scandalizza di questo o di quell'aspetto del giubileo, che evidentemente si potrà celebrare anche in Palestina e speriamo che siano in molti a scegliere questa opzione. In questo momento non saprei farvi delle citazioni precise, ma le argomentazioni di Messori, vi assicuro, le ho già sentite altre volte, e a tutt'altro proposito. Il concetto base è sempre quello di ammettere che sì, l'anno santo comporterà una quantità di aspetti, non diremo poco edificanti, ma certo non rigidamente consoni alla natura religiosa dell'evento. Il pellegrinaggio per molti si colorirà da aspetti turistici. Su di esse aspetti fiorirà tutta un'industria di gadget, si scatenerà l'avidità di albergatori, ristoratori e quanti altri cercheranno di trarne guadagno. La città santa si troverà dal punto di vista logistico nei guai fino al collo, i diritti dei suoi cittadini, non tutti consenzienti, credo, finiranno per essere conculcati, almeno in parte. Il progetto di sospendere nella fausta occasione le libertà sindacali sta andando avanti benino, anche se se ne parla poco, ma è forse criticabile. Certi discorsi che riguardano il mondo dei media, a cui si chiede per l'occasione una qualche speciale sensibilità, puzzano un po' di censura preventiva. Ma non scandalizziamocene, si dice, perché al di sopra di queste miserie c'è una realtà di ben altra importanza. Allora, un articolo come quello che vi ho citato, che non si scandalizza di un fatto fin troppo evidentemente futile, dà un po' l'impressione di chi mette le mani avanti. Diciamo che ha il valore presso poco di una profilassi, di una vaccinazione. Cominciamo con non scandalizzarci di un evento da niente. E così ci abitueremo a non scandalizzarci di quelli via via più grossi e resteremo perfettamente indifferenti alla fine di fronte a quella cosa scandalosissima che è il giubileo in sé, che si fonda in linea teorica sul buon caro vecchio commercio delle indulgenze e in linea pratica comporta l'abdicazione della società laica di fronte alle necessità di un'invadente organizzazione religiosa. Ma di queste cose naturalmente non scrive mai nessuno.